Quarta ed ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani del disco di Hypnotical Dead World. Come si chiamava questa canzone? No Room to Imagination. Quali ora gli obiettivi della band? So che siete già nel bel mezzo di nuove incisioni che andranno a comporre il nuovo disco con la nuova formazione. E innanzitutto date, ancora date. Dobbiamo presentare i brani nuovi, la nuova formazione. Dobbiamo far vedere un po' che siamo ripartiti, visto lo iato temporale che c'è stato con la dipartita per altri lidi del cantante e del batterista. Perciò abbiamo una nuova formazione con l'entrata di un nuovo strumento, nel mio caso appunto le tastiere, e nuovo cantante. E perciò abbiamo anche dato un nuovo imprinting alle tematiche del disco. Se Dead World, appunto come richiama il titolo, è un mondo decadente, e la prossima canzone che andremo ad ascoltare, appunto inedita, ci farà sentire, oltre che la nuova formazione, un nuovo sound che introdurrà anche delle nuove tematiche, proprio per dare uno stacco al precedente lavoro che era stato fatto in studio. Vi ricordo che è una preproduzione autoprodotta e quindi buon ascolto. Quindi il brano si chiama? From the Universe Beyond. Il tempo vola e noi siamo quasi a fine di puntata. Vi ricordo i contatti per le segnalazioni. Scrivete l'indirizzo email a jeanluc76m@yahoo.it. Ricordo www.radiorcs.it per info su Radio RCS, Rock Legends e streaming per ascoltare la nostra radio attraverso il Media Player. Un grazie agli Ipnotetica per la partecipazione, a questo punto a voi la parola per i contatti web ed email, per informazioni sul vostro disco ed alcuni live in programmazione. Beh, intanto noi vi ringraziamo per lo spazio che ci avete dedicato. Intanto, vabbè, facciamo una carrellata veloce. www.hypnotetical.it, faccio lo spelling in modo che HYPNOTHETICAWL, così non vi sbagliate. Il nostro sito ufficiale, che è praticamente una maschera nella quale troverete tutti quanti i link per le nostre pagine su ovviamente tutti quanti i social network, MySpace, YouTube, Facebook, Twitter, Reverb Nation, chi più ne ha più ne metta. C'è dappertutto, insomma. Esatto. Poi, vabbè, contatti per booking, eventuali date a Hypnotetical, @hotmail.com. Ovviamente vi ricordiamo che il nostro disco è sempre disponibile in versione fisica, scrivete alla band che poi ve lo recapitiamo in qualche modo, piccioni viaggiatori ne abbiamo. Oppure, se siete dei pigroni, versioni digitali in MP3 che vanno tanto di moda, potete trovare il nostro disco Dead World ovviamente su iTunes, Amazon, Rhapsody, Napster, insomma, copriamo qualsiasi cosa. E basta, io ho finito con le direttive, vi ringraziamo ancora per lo spazio che ci avete dedicato, ce ne vuole di gente come voi, eh. E live, se andate comunque sul sito trovate tutte quante le date aggiornate, ovviamente. Brano per chiudere questa puntata? Io direi Lost Children, che è anche il disco che chiude, sì, la traccia che chiude il nostro disco, e basta. Un grazie ancora a Radio RCS e un saluto da parte degli Ipnotetico. Ciao! Ciao, ragazzi! Gianluca e gli Ipnotetica vi salutano, noi ci risentiamo la prossima settimana. Ciao! Ciao! Ciao. Thanks to you.